voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Cade un mozzicone, si incendia la moquette e brucia tutta la casa, no? Non fumo. Il suo cane uccide il gatto del vicino, ma lei se ne frega perché con i soldi dell'assicurazione compra il coniglio. Non ho cani. Il bambino con la palla rompe un vetro? Non ho figli. Sua moglie? No. Non ha moglie? No. Non l'ha trovata della sua misura? No. Vabbè, allora sono fregato. Sì, a questo punto è fregato. Vediamo cosa fa. A questo punto prendo la polizza e qua scrivo che lei non ha voluto assicurarsi. Non funziona, questa pena... Oh, mi scusi, ho schizzato. Mi ha sporcato tutto il vestito. Però, vede, se l'avesse firmato, sarebbe stato assicurato e le avrebbero risarciti i danni. 30-40 mila lire se le sarebbe beccate. 40 mila lire, 500 mila, questo conto 500 mila. E lì ho pure stoffa di cartellini. Ma guarda, questi sono cazzi suoi del perito. Comunque, guarda, se ci ripensa, si faccia vivo. Se cambi idea, mi faccia sapere. Bianco, bello. Arrivederci, condoglianze. Ti tenevo così... Sono stati Mercy Miss Monroe a chiudere la prima parte di Eclettica, ad aprirla invece il bel pezzo dei This Harmony che vi siete appena ascoltati. Loro, nel caso non lo sappiate, vengono dall'Umbria e invece dalla Francia viene l'artista che ci sta per tenere compagnia. Si tratta di Alex Goffin. We'll be right back. Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un'onda. Non che egli sia assorto nella contemplazione delle onde, non è assorto perché sa bene quello che fa. Vuole guardare un'onda e la guarda. Non sta contemplando perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d'animo adatto e un concorso di circostanze esterne adatto. E per quanto il signor Palomar non abbia nulla contro la contemplazione in linea di principio, tuttavia nessuna di queste tre condizioni si verifica per lui. Infine, non sono le onde che intende guardare, ma un'onda singola e basta. Volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso. Questo era l'incipit di Palomar, di Italo Calvino. twilight's last gleaming. Di tanto in tanto ci tengo a ricordare i modi che hai a disposizione per metterti in contatto con me, a partire dall'indirizzo di email giulio@radiorockfm.com, che serve sia per ovviamente scrivere messaggi di posta diretti a me, ma anche per iscriverti alla lista nera di Eclettica, che ti permette di ricevere perlomeno un mail alla settimana durante il weekend a chiusura della settimana, con la playlist della settimana stessa, quindi tutto l'elenco dei brani, dei film e dei libri che hanno caratterizzato la trasmissione, e magari anche con qualche anticipazione per quanto riguarda le trasmissioni successive. E poi myspace.com/eclettica, dove invece puoi scrivere nel caso vuoi scrivere e tutti abbiano la possibilità di leggere quanto tu hai scritto. E lì sopra ci sono anche le informazioni su come recuperare i podcasting, e in ogni caso c'è anche l'elenco di tutte le playlist della stagione in corso, che ricordo essere la numero 13. Big Sur è il progetto che ci stiamo per ascoltare, un progetto che vede assieme Lisa Papineau, che ha collaborato fra i tanti con gli Air, e Juan Alderete della Peña dei Mars Volta. Ci sono diversi artisti che danno loro una mano. A me piace andare a prendere il brano dove compare Money Mark. I let down. Mamma mia, come sei brutto. Era meglio il cane. Vabbè, io se non altro non faccio la cacca per la strada. Beh, questo lo vedremo. Andiamo, va. Venga, l'accompagno. Ma no, ma che fa? L'accompagno. Lascia stare, guido io. Vai avanti tu, cammina, su. Cammina, su. Corri, svelto. Svelto, vai, vai avanti, cammina. Svelto, perché non ci vedi. Cammina dritto, su. Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono scendere diritti rasente le pareti fredde, tenute discoste a forza d'arcate che traversano la striscia di cielo azzurro carico. Scendono diritti i raggi del sole giù per le finestre messe qua e là in disordine sui muri,